gente gonfia andar verrà d'onde abbattendo argini e sponde allo giur di crudeltà. Di crudeltà. Veder parmi or che nel poto giù precipita, precipita di stige, giù precipita, precipita di stige, sangue illustre ed innocente compie andarne rapido. Battendo argini e sponde all'orror di crudeltà. Di crudeltà. Ingiuste morte, già si furia e l'onda è stolle, e di sangue di rabolle, a sorbir ben si vorria. E tra seguo in compagnia, di nemico e di pietà. Argini e sponde all'orrore di crudeltà. Di crudeltà. Veder parmi che il poco giù precipita, precipita di stige, giù precipita, precipita di stige, sangue illustre ed innocente compie andare rapido te, abbattendo argini e sponde all'orror di crudeltà.